Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Sanremo, 26 gennaio 1967. Nella città dei fiori si apre il 17° Festival della Canzone Italiana. Si scatena il solito circo mediatico intorno all'evento canoro più importante d'Italia. Giornalisti, discografici, televisioni, polemiche. Uno dei grandi cronisti Rai che hanno fatto la storia della televisione, Lello Bersani, segue la kermesse. Il compito di un cronista nella Sanremo di quest'anno è molto difficile. Giornalisti a centinaia, truppe televisive e radiofoniche a decine e ben 91, dicasi 91, i cantanti, comprendendo naturalmente anche i complessi vocali e il coro. Quando voglia di ricordarti, io vado sul mio tetto. Negli anni 60 il Festival di Sanremo ospita anche cantanti stranieri. Il meccanismo è questo. A ciascun big italiano viene abbinato un cantante straniero, con il compito di cantarne il brano in una seconda esecuzione. Un sistema complesso che il pubblico però sembra gradire. Grido, grido, le mille cose pazze che io non ti ho detto mai. Nella tensione della vigilia e delle prove, alcuni dei protagonisti rilasciano qualche dichiarazione ai microfoni di Bersani, come Domenico Modugno. Io sto qui perché devo controllare il nemico. Il nemico? Ma sono tanti, sì. Beh, i nemici, diciamo, sono tutti nemici. Ci sono 30 canzoni, 60 cantanti, a moglie, nemici. Bisogna stare attenti, bisogna studiare, bisogna vedere come cantano, come non la cantano. Io sto a guardare. Molti nemici, molto onore, ma come andrà a finire quest'anno per te, naturalmente? Beh, io non lo so come butta quest'anno. Comunque, come butta, butta, butta bene, perché la mia canzone è bella. O Jimmy Fontana. E niente, io qui non ci capisco più niente, qui tutti arrabbiati, tutti... Io non so, avevo fatto il suo festival del 62, mi ricordavo tutta un'altra atmosfera, tutta un'altra cosa, tutti un po' più tranquilli, un po' più alla Bersalia. E adesso sono tutti lì, stanno come... È una cosa incredibile, è diventato un elefante sto festival, non ci si capisce più niente. Una volta potevamo essere al massimo 20-25 cantanti, alcuni addirittura facevano due pezzi, no? Adesso 91! Cantanti? Cantanti, sì. Io quando ho provato il pezzo oggi mi sono messo paura, dico no, per carità, basta, io adesso finisco e me ne vado perché... Quello del 1967 è un festival particolare anche per questioni storiche. Siamo a un anno dal 68, dalle contestazioni giovanili e dall'affermazione di rivoluzioni culturali che sono già in atto. Abbondano i giovani qui in Riviera quest'anno. Giovani beat, come racconta ancora Lello Bersani in un altro servizio d'epoca. L'ambiente è multicolore. Tranne i divi più affermati, tutti gli altri, i giovani, i modernissimi, sì, insomma, i beat indossano abiti sgargianti, multicolori, i capelloni si sprecano, ma con un certo tono di raffinatezza. Questi ragazzi sono accorsi in massa in Riviera per vedere i loro idoli, in un'epoca in cui il festival, oltre ad essere una grande manifestazione popolare e un fenomeno di costume, è ancora una vetrina di qualità per musicisti di alto livello. Qui i giovani vorrebbero premiare quelle voci e quegli artisti arrabbiati, in grado di cantare i loro disagi in fermento. A condurre il festival, un volto noto della manifestazione italiana, Mike Bongiorno. Ecco qua, e ultimi arrivati i presentatori. Mike, come mai è arrivata per ultimi? Sempre? Beh, sai, questo è il mio quinto festival e oramai ho imparato cosa si deve fare. Siccome fino all'ultimo momento non si sa cosa succederà sul palcoscenico, è meglio arrivare il più tardi possibile. Tutto è pronto per l'inizio della serata d'esordio di uno dei festival di Sanremo più attesi. I cantanti eseguiranno le canzoni una prima volta nell'arco delle due serate del 26 e del 27 gennaio, 15 per sera, con l'aggiunta della replica dell'ospite straniero. Al termine delle serate sarà compito delle giurie sparse in 15 località segrete decretare le migliori da mandare in finale. 14 titoli più un ripescaggio. Ad aprire la competizione l'immensità di Don Bachi e Johnny Dorelli. E un giorno io saprò Quella sera sono molti i cantanti che si avvicendano sul palco dell'Ariston, riconducibili in qualche modo alle nuove tendenze musicali. I Rockies, che cantano in coppia con Lucio Dalla, Bisogna saper perdere. No, non puoi sempre vincere. I Giganti, o Ricky Maiocchi, ex frontman dei Camaleonti, che canta in coppia con Marian Faithfull, moglie di Mick Jagger, che arriva al festival per la gioia dei fotografi. E ci sono Sonny e Cher, che cantano insieme a Caterina Caselli Il cammino di ogni speranza, una delle tante canzoni di protesta. Solo tu mi sapevi parlare con amore. Va aggiunto il nome di uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Un giovane estroso, talentuoso e tormentato, anche lui associabile al beat, ma semplicemente perché i suoi testi e le sue musiche nascono dal profondo dell'anima ed esprimono sentimenti e riflessioni in grado di toccare ogni uomo. Il suo nome è Luigi Tenco. Luigi Tenco. Oppure si vengono a sapere cose, fatti che suscitano in un individuo determinate reazioni. E siccome sono un compositore, queste reazioni finiscono per essere estrinsecate in una canzone. Luigi Tenco in realtà non è esattamente un cantautore da festival. I suoi sono brani intimi, profondi, privati. Eppure in quel 1967, quando è uno dei cantautori più celebrati sul piano artistico in Italia, si presenta in gara. Lo fa perché il suo rapporto con la fama e la notorietà non è sereno, non è tranquillo, non è pacificato. Infatti vive la competizione malissimo. Sale sul palco la seconda sera. Nei corridoi dei camerini dell'Ariston, a chi lo incontra, parla di un uomo in completo stato di agitazione, sudato, con gli occhi persi nel vuoto, teso. C'è chi dice che addirittura Mike Bongiorno abbia dovuto convincerlo a salire sul palco perché il cantautore si rifiutava. Io mi ricordo che nel momento in cui doveva uscire sul palcoscenico, io feci un grandissimo sforzo e mi ricordo che mi disse queste precise parole: vado fuori, canto e poi ho chiuso con la musica leggera. Quando poi su quel palco ci sale e canta Ciao amore ciao, nell'aria si avverte tutta la sua preoccupazione. La racconta il critico musicale Nino Pirito. Vi assicuro che appena apparì non era lui, non era lui, aveva gli occhi vuoti, aveva uno sguardo assente, come un automa si avvicina al microfono nel suo vestitino nero, con la cravatta, ben vestito, bello, bello da impazzire, cioè un bel tenebroso, ma con una faccia incredibile, con un volto irriconoscibile, e comincia a cantare. E canta come se veramente stesse nuotando controcorrente. Si sente che fa fatica quasi a respirare. Finalmente sul palco, Luigi Tenco inizia a cantare. Ciao amore, ciao amore, ciao. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. Ciao amore ciao è un grande pezzo. Come quasi tutte le canzoni di Tenco, forse le più rappresentative delle nuove tendenze della musica d'autore italiana degli anni 60. Testi scarni e laconici ritraggono alla perfezione le contraddizioni della controversa società che va formandosi. Canzoni giudicate così da Renzo Arbore. Quelle sono canzoni sempre verdi, quelle non passano di moda. Quella roba lì non passa di moda, quelle devono ancora essere scoperte dai critici veri che devono decidere che quelle canzoni sono dei capolavori, piccole operine che rimangono nei secoli dei secoli accanto al melodramma, accanto alla musica accademica, accanto alla cosa eccetera, perché sono dei piccoli grandi capolavori. La reazione del pubblico dell'Ariston all'esecuzione di Ciao Amore Ciao non è molto positiva. La racconta il critico musicale Nino Pirito. Ripeto, poi l'ossessione di questa batteria, e questa voce, la solita, e non sentivi altro. La canzone arrivava così, se arrivava a me così che conoscevo, ho pensato, non ce la fa. Lui finì di cantare e si allontanò, veramente adombrato, incazzato, lasciò il palco. Dico, speriamo che non la ripetisse. Allora le canzoni venivano ripetute dai grandi interpreti stranieri. È una grande cantante francese, Dalida, scelta come partner di Tenco. Deve ripetere la sua canzone. Tra i due c'è un legame profondo, forte, mai chiarito. Una relazione, si dice da tempo. La cantante francese, quasi per osmosi, sembra aver assorbito tutta la tensione che aveva caratterizzato la performance di Tenco. Oh, porca miseria, non ti arriva Dalida e fa sta canzone con una drammaticità greca proprio, sembrava Elettra, il lutto di Elettra. La solito stro. Ma che stanno a fare sti due? Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao amore. Comunque scrosciano gli applausi, ma Tenco è tutt'altro che ottimista e fiducioso. Gli altri big in gara completano il quadro del primo turno. Ora la parola passa alla giuria, che deve determinare i 14 finalisti. Si stanno per concludere a Sanremo le votazioni per designare le canzoni finaliste della prima serata. Nettamente in testa, Io, tu e le rose, cantata da Orietta Berti e votata in massa. Si profila l'eliminazione di grandi protagonisti come Modugno, Fidenco, Bongusto, Reitano, Dalida, Bobby Solo. Anche Dalida sperava in un risultato migliore alla vigilia di quel festival, ma la giuria, come spesso accade, ha mescolato effettive valutazioni musicali a interessi di tipo economico appartenenti al mercato discografico. Un esempio? La giuria ha scelto, come detto, 14 brani. Alla finale del regolamento accederà anche un quindicesimo, scelto però da un'altra giuria, composta da 4 giornalisti RAI incaricati dall'organizzazione di effettuare questa valutazione. La scelta ricade sulla mediocre La Rivoluzione, cantata da Gianni Pettenati e Gene Patney, distribuita dalla Cetra, che è la casa discografica di proprietà della RAI. Guarda quante facce scure, piene di rancore, sono ferme là. Dalida e gli altri uomini del clan Tenco vanno a cena. Dopo l'eliminazione, però, Luigi non ha voglia di cenare, non ha voglia di compagnia. Torna in albergo da solo e prende la sua Spider. Ma lui si allontana dall'albergo. Si allontana dall'albergo, va, non si sa bene dove, probabilmente in Costa Azzurra, probabilmente da qualche parte. A un certo punto rientra e sicuramente richiama Roma o viene richiamato da Valeria a Roma. Ci sarà. Valeria, si saprà dopo, è l'amore segreto di Luigi Tenco. Un rapporto mai realmente ufficializzato, ma mai veramente concluso. La donna affermerà poi di averlo sentito tranquillo. Tempo dopo salteranno fuori anche delle lettere controverse, perché mai accertate come autentiche. La loro conversazione telefonica comunque finisce. Il telefono in camera di Tenco, però, suona una seconda volta. È Dalida. Chiama preoccupata e con lei tutto il clan RCA. Parla con Luigi. Lui li tranquillizza, apparentemente, come ricorda Mario Simoni, uno dei manager dell'etichetta discografica. Fummo noi a chiamare Tenco in albergo per sapere se fosse arrivato, perché eravamo preoccupati per come guidava la macchina. E dicemmo, chiamammo Dalida per dirle se voleva parlare, se voleva dire qualcosa a Tenco. Tenco era arrivato e Dalida disse no, ci parliamo dopo. Anche il fratello di Dalida è presente a quella cena e racconta che sua sorella in realtà era tutt'altro che tranquilla. Dopo un quarto d'ora ha pregato a Paolo Dossena e a Mario Simone di raccompagnarla all'albergo perché era molto inquieta per Luigi. Dice che deve andare a riconfortarla. Siamo partiti all'albergo, sì. Il resto lo sa. Dalida è arrivata, è stata la prima, ha fatto finta di montare sopra la sua camera, ha preso la chiave, è andata perché lui non era al primo piano, era giù come si Così Dalida torna in albergo. Arriva nella hall, deserta. Prende la chiave e sale le scale. Quando arriva in camera, la scoperta è terrificante. Poco dopo, accanto al suo corpo, verrà ritrovato un biglietto in cui si trovano scritte queste parole. Io ho voluto bene al pubblico italiano e gli ho dedicato inutilmente 5 anni della mia vita. Faccio questo non perché sono stanco della vita, tutt'altro, ma come atto di protesta contro un pubblico che manda Io, tu e le rose in finale e una commissione che seleziona alla rivoluzione. Spero che serva a chiarire le idee a qualcuno. Ciao, Luigi. Un gesto estremo, scioccante, inspiegabile. Possibile che a scatenare la tragedia sia stata la sconfitta, il tradimento del pubblico? Cosa ha scavato nell'anima di Tenco un solco così profondo? Cosa ha spinto il destino di Dalida a incrociarsi con il suo? E soprattutto, come reagirà la cantante francese? Mettiamo un po' di ordine e cerchiamo di rispondere a qualcuna di queste domande, iniziando con un quesito fondamentale. Chi era davvero Luigi Tenco? Lo scopriamo tra poco, a Destini Incrociati. Se stasera sono qui, è perché ti voglio bene, è perché tu hai bisogno di me, anche se non lo sai. Stasera sono qui, è perché so perdonare e non voglio gettar via così il mio amore per te. Oggi a Destini Incrociati siamo partiti dalla Riviera di Ponente, in Liguria. Siamo partiti dalla Città dei Fiori, Sanremo. Siamo partiti dal Festival della Canzone. Siamo nel 1967. Dopo la seconda serata, Luigi Tenco, uno dei grandi cantautori della musica italiana degli anni 60, si toglie la vita. È un gesto di protesta, pare, contro l'industria della musica, contro il pubblico che non premia le sue composizioni raffinate e intimistiche. È veramente così o è piuttosto il gesto di un uomo disperato che per la sua sensibilità tenebrosa e vibrante è arrivato a trovare insopportabile l'esistenza? Io sono uno che sorride di rado, questo è vero. Luigi Tenco nasce a Cassine, in Piemonte, il 1 marzo 1938. Cassine è un piccolo paese tra le province di Alessandria e Asti, sulle splendide colline del Monferrato. Vivrà però la sua adolescenza a Genova, dove la madre apre un negozio di vini quando è ancora molto piccolo. Nonostante la perdita del padre, avvenuta ancora prima che nascesse, la sua è un'infanzia tranquilla. Si potrebbe dire normale, agitata solo da quel talento musicale che fin da giovanissimo mette in mostra. Ma in giro ce ne sono già tanti, che ridono e sorridono sempre, però poi non ti dicono mai cosa pensano dentro. La sua prima band si chiama Jerry Roll Boys Jazz Band. La fonda quando è ancora giovanissimo, insieme a un altro ragazzo che sarà presto un nome noto della musica italiana, Bruno Lauzi. In questa band Tenco canta e suona lo strumento che gli è più caro, il clarinetto. Dopo lo scioglimento della band ne fonda un'altra, I Diavoli del Rock, con un altro futuro cantautore, un tale Gino Paoli. Nel frattempo porta avanti anche i suoi studi universitari, prima come ingegnere, poi in scienze politiche. Non è un dettaglio trascurabile perché indubbiamente contribuirà a formarlo come un cantautore colto e profondo, di grande spessore, come ricorda Mike Bongiorno. Era un ragazzo, direi, un grande romantico, era un ragazzo che credeva moltissimo nel suo genere musicale. Però era anche un tipo che si abbatteva molto facilmente. Quando non riusciva a fare successo nelle serate alle quali partecipava, era veramente un disastro perché si rinchiudeva in se stesso. Difatti è sempre stato un introverso, Luigi Tenco. Scioltisi i diavoli del rock, per Tenco inizia la carriera solista. Sarà breve, intensa, fulminante. Il primo successo è I miei giorni perduti. Carezze, dolcezze, ora sono realtà, i miei giorni perduti li ho ritrovati. E nella vivace scena musicale genovese che Tenco muove i suoi passi, mette radici, stringe legami, in quel contesto Luigi è un ribelle. Ha un'aria maledetta e tenebrosa, come molti giovani dell'epoca che covano la contestazione nutrendosi di icone cinematografiche popolari, come ricorda l'amico Gino Paoli. Quando venne fuori Gioventù Bruciata e James Dean, c'erano 80, 100, 200 James Dean a Genova, Luigi, che erano, sì, comportavano in quella maniera lì. Nel 1962 Tenco interpreta il suo primo ruolo cinematografico. Capita spesso negli anni 60 che gli idoli della musica pop interpretino piccoli ruoli nei film. Così fa Luigi, che nel film La cuccagna di Luciano Salce, in una breve sequenza, canta La ballata dell'eroe, una canzone scritta dall'amico Fabrizio De André. Non è un eroe Luigi e parla a una generazione che non ha nulla di eroico, una generazione spiazzata, spezzata, agitata. Il boom economico improvviso, il bombardamento di riferimenti e di messaggio che l'affermazione di nuovi media ha portato, mettono i giovani spesso davanti ad angoscianti bivi. Luigi Tenco canta proprio il loro smarrimento, come ricorda lo scrittore Arnaldo Bagnasco, coetaneo e amico di Tenco. Mentre la nostra vita era di una chiarezza totale, vivevamo in una precarietà totale, una precarietà mentale e anche fisica. Le difficoltà esistenziali, la ricerca del lavoro, l'orizzonte che non si dipanava, non si chiariva, quindi c'era una vera incertezza. Il problema generazionale era vissuto da tutti noi in maniera molto intensa. Cara maestra, un giorno mi insegnavi. Tenco ha un carattere difficile. Non riesce facilmente a mantenere le amicizie. Nel 1963 rompe con l'amico Gino Paoli semplicemente a causa della sua relazione con Stefania Sandrelli. A questo si sommano infiniti problemi con le commissioni di censura, in quegli anni particolarmente ottuse. Nel 1962 bloccano l'uscita di Cara Maestra, una secca e bellissima canzone pacifista. E quando entrava in classe il bidello, ci permettevi di restar seduti. Stessa sorte tocca due anni dopo a Io sì e Una brava ragazza. Tenco si costruisce la fama di cantautore scomodo, portatore di messaggi ambigui, troppo schietto, troppo esplicito. Per questo motivo rompe in continuazione con le etichette discografiche per le quali firma. A dargli coraggiosamente fiducia, nel 1965, è la RCA, con la quale arriva il successo definitivo. Un giorno dopo l'altro diventa addirittura sigla di Il commissario Maigret. Le temps file ses jours, l'on passe sous le pont. Sempre nel 1965 l'incontro con una grande cantante francese a Roma, Dalida. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché. Yolanda Cristina Gigliotti. Questo è il vero nome di Dalida. È italiana d'origine, francese d'adozione artistica. Con 170 milioni di dischi può essere tranquillamente considerata una delle più grandi artiste francesi del XX secolo e una delle voci più significative della musica internazionale. Pour moi, on le même goût et tous les bateaux. Dalida esplode all'inizio degli anni 60, raccogliendo idealmente l'eredità di Edith Piaf, appena scomparsa. Diventa immediatamente nota e famosa in tutto il mondo, sostenuta dalla sua grande voce e dalla sua straordinaria bellezza. Nel 1965 si trova a Roma per lavoro e conosce Tenco. Qui le testimonianze d'epoca divergono clamorosamente. La prima teoria, la più accreditata, è che i due abbiano una relazione, che la splendida primavera romana, con i suoi profumi, i suoi colori, i suoi odori, li spinga l'uno nelle braccia dell'altra. Il bel tenebroso, il cantautore arrabbiato, e la splendida star francese, un angelo biondo. Altri però non la pensano così. Secondo molti sarebbe una mera trovata pubblicitaria della RCA, che li ha sotto contratto entrambi. In ogni caso Dalida rimane affascinata dalla musica di Tenco, tanto che quando sente negli studi della RCA Ciao amore ciao, insiste perché il cantautore la porti a Sanremo e perché lei sia con lui al suo fianco. Luigi è scettico, non vede con favore la partecipazione a una competizione popolare di quel tipo, ha paura di mettersi in gioco fino a questo punto. Ma alla fine Dalida insiste così tanto che Tenco, assecondando la tragica ironia del destino, cede e si presenta in gara forse intuendone i rischi, come ricorda l'amico Fabrizio De André. Quando si mettono in gioco, si mettono in gara, in competizione, i propri sentimenti, i sentimenti a cui si crede, si può correre il rischio di avere delle reazioni magari esageratamente dilatate di fronte ad un'eventuale sconfitta più morale che non professionale. Siamo tornati al nostro evento di partenza, Sanremo, 17esima edizione, 1967. La sconfitta professionale di Tenco si trasforma in una tragedia che colpisce e punisce nel profondo anche Dalida e si contorna di mistero. Quando il mio amore tornerà da me, nel cielo una stella splenderà. Destini incrociati. Sanremo. È la notte tra il 26 e il 27 gennaio 1967. Luigi Tenco ha appena preso dell'esclusione al primo turno del suo brano Ciao amore ciao. È un pezzo complesso e difficile. Nel testo richiama Cesare Pavese. La musica è articolata e mai banale. Ma Luigi vive malissimo la competizione. Per lui la musica è un fatto di emozione e sentimento. Così la sua performance è cupa e livida. Il pubblico non gradisce, la giuria nemmeno, e lo manda a casa. In una stanza dell'Hotel Savoy, qualche ora dopo, Luigi Tenco si toglie la vita sparandosi con una pistola acquistata poco tempo prima per difesa personale. E il festival piomba nel dolore. Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui all'Hotel Savoy dal quale vi parlo. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tenco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. La voce che avete sentito, rotta dall'emozione, è quella di Lello Bersani, corrispondente del telegiornale da Sanremo. Quel giorno Bersani non si trova a commentare le solite frivolezze da festival, le bizze dei cantanti, le luci della ribalta. Il carrozzone sanremese deve fare i conti con il dramma e ne rimane schiacciato. Il giornalista Fabrizio Zampa, tra i primi ad accorrere sul luogo, ricorda così la scena surreale che gli si mostra davanti. Io sono andato in questo corridoio e un fotografo mi disse Tenco si è ammazzato, ma il fotografo saliva le scale, io scendevo. Io arrivai in questo corridoio e non c'era nessuno, c'era la porta semichiusa della stanza 219, c'era Lucio Dalla per terra, stava seduto per terra completamente nudo e mangiava una mela, come se fosse inebetito, come se non avesse capito bene quello che stava succedendo. Lo capisce bene quel che è accaduto Dalida. È la prima a scoprire il corpo di Tenco. Esce urlando dalla stanza, scappa, distrutta e sconvolta. Da quel momento accadono cose incomprensibili. Il corpo di Tenco viene prima portato all'obitorio e poi riportato in albergo perché il commissario si è dimenticato di fare le foto di prassi sul luogo del delitto. Il proiettile non viene trovato. Salta fuori una seconda pistola e nascono dubbi su quale delle due abbia sparato. Il mistero si infittisce. Saltano fuori lettere scritte a questa fantomatica Valeria che alcuni sostengono essere un amore segreto di Luigi. Secondo altri, queste lettere sarebbero contraffatte. Cosa ancora più strana, infine, Dalida viene fatta partire immediatamente per la Francia. Lei che ha ritrovato il corpo, che sarebbe il testimone chiave. Un mistero che non si dipanerà mai del tutto, nemmeno dopo la riesumazione del corpo del cantante, avvenuta nel 2005 per fare chiarezza. Ma a noi qui adesso interessa un'altra storia. Quando un giorno mi sarò stancato di te che aspetti sempre, Dalida aveva conosciuto Tenco 2 anni prima. Ciò che succede quella notte a Sanremo la cambia per sempre. Era stata lei a spingere Tenco in gara, ora fugge da quel luogo terribile, ma non riesce a fuggire dai propri fantasmi. Un mese dopo, il 26 febbraio del 1967, Dalida tenta di raggiungere Tenco. Si chiude in segreto all'Hotel Principe di Galles di Parigi, stanza 410, dove pare avesse dormito con Tenco. Scrive 3 lettere all'ex marito, alla madre, al pubblico. Si imbottisce di farmaci e si mette a letto con la luce accesa. Yolanda, questo è il vero nome della cantante, ha paura del buio. Verrà salvata per il rotto della cuffia da una cameriera e starà 5 giorni in coma. Per i successivi 20 anni la cantante prova a gettarsi alle spalle l'accaduto. Rilancia la propria carriera e ci riesce, fino a ottenere il titolo di Commendatore delle Arti, delle Scienze e delle Lettere, conferitole dal presidente francese Charles de Gaulle il 18 giugno 1968. E inizia una lunga ricerca spirituale con frequenti viaggi in Nepal. Anche sul palco appare cambiata. Non più quel mix di erotismo e sofferenza degli anni 60, ma un'eterea aura spirituale, con lunghi abiti bianchi e movenze solenni. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Dalida è d'origine egiziana. François Mitterrand l'ha definita la seconda Cleopatra. Così, nella sua seconda vita, Dalida, che ha intrapreso anche una brillante carriera di attrice, torna proprio in Egitto, nei luoghi della sua infanzia. Tornata in Francia, Dalida commuove i suoi connazionali scoppiando a piangere durante un'intervista quando è chiamata a parlare di Ciao amore ciao. Qualche giorno dopo, il 2 maggio del 1987, esce in macchina dalla sua villa di Montmartre e va a imbucare una lettera per il fratello, poi torna a casa. Scrive di getto su un foglio: «Perdonatemi, ma la vita mi è insopportabile». Prende un cocktail di barbiturici, si mette a letto e per la prima volta vince la paura del buio e si addormenta. Per sempre. On bloque la rue une dernière fois pour une amie, Dalida. Il tragico destino di Dalida si è compiuto. La splendida cantante ha raggiunto da qualche parte Luigi Tenco. Il loro incrocio aveva segnato i rispettivi destini in quel tremendo 27 gennaio 1967, in quella notte carica di mistero e di incertezze. In quel maledetto festival che in nome degli interessi era andato avanti, non aveva saputo nemmeno fermarsi innanzi alla tragedia. Un festival che ha cambiato 2 vite, cantato e consegnato alla storia da una splendida canzone di Francesco De Gregori, il migliore epitaffio per questi 2 tormentati artisti. Alla città dei fiori, disse chi lo vide passare, che forse aveva bevuto troppo, ma per lui era normale. Qualcuno pensò fu problema di donne, un altro disse proprio quasi come Marilyn Monroe. Lo portarono via in 200. Peccato fosse solo quando se ne andò. Vi ha presentato Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.